Eccoci all'appuntamento con il cinema giovedì, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, visionari, potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio che è ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta e sempre sull'home page c'è anche Sostieni per le modalità telematiche con le quali contribuire alla vita di questa emittente che vive dal 1977 senza padroni, senza pubblicità. Potete contribuire anche voi quindi a farla continuare a parlare. Per quanto riguarda Visionari, la scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. E poi per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Eccoci con Luca Gianotti, protagonista del documentario La Terra Trema, che sarà presentato a Logos, di cui si diceva poc'anzi, all'ex SNIA Viscosa qui a Roma, in via Prenestina 173, domani venerdì 2 ottobre. Luca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, intanto parliamo di questo documentario e poi dell'incontro che ci sarà domani a Logos. Cominciamo dalla Terra Trema. Cos'è questo titolo, questo documentario, Luca? Allora, intanto è un programma, una serie di documentari di Guido Morandini, sì, regista Rai, si chiama Experia, il ciclo, e la cosa interessante è che racconta nell'anno dell'Expo un'Italia alternativa, quindi lui ha girato l'Italia da nord a sud facendo 17 documentari che raccontano l'Italia muovendosi tra l'altro con mezzi sostenibili, girava in bicicletta, a piedi, in canoa, con queste cose, e documentava raccontando storie, raccontando persone, che hanno fatto scelte di vita alternative, e quindi è una serie di documentari che è tutta consigliabile. In particolare La Terra Trema è la puntata dedicata un po' all'Abruzzo, l'Abruzzo montano, l'Abruzzo marsicano, una regione pochissimo conosciuta e diciamo in una fase anche economico-sociale di difficoltà e però con tante possibilità e potenzialità, lui quindi mi ha incontrato e si è camminato con me alcuni giorni per raccontare l'Abruzzo da un altro punto di vista, da una prospettiva appunto camminando. Senti Luca, ecco, la curiosità è subito sul primo punto: come è avvenuto il vostro incontro? Ha saputo quasi casualmente che io ero in quel momento in cammino e che stavo facendo questo cammino di 15 giorni in gennaio, a forma di doppia spirale, quindi una cosa anche un po' eccentrica, e gli è piaciuta l'idea, gli sono piaciuti i messaggi che io ci volevo lanciare col mio cammino, e quindi mi ha raggiunto con la sua biciclettina portatile in treno e poi si è messo a riprendere per 2 giorni camminando a fianco a me e a un altro paio di persone che si erano unite in questi 2 giorni. Tu come comunicavi questa tua intenzione del viaggio che hai intrapreso e poi del quotidiano? Ma praticamente io avevo creato una pagina Facebook, raccontavo quindi questo progetto che coltivavo da alcuni mesi, quindi mi era sembrato importante per me entrare dentro un luogo, un territorio, proprio con questa doppia spirale, quindi per voler entrare in profondità, e quindi questo blog, che poi dopo era diventato anche una pagina sul quotidiano locale, quindi pubblicavo tutti i giorni una pagina sul quotidiano che riassumeva un po' le mie esperienze di quella giornata, e quindi la gente poi mi riconosceva anche in cammino vedendomi passare, insomma, ecco, quindi da lì. Senti, questo tuo viaggio è cominciato dall'Abruzzo o c'erano già state prima altre tappe? No, io sono un camminatore che ho dedicato al cammino tutta la mia vita, quindi sono un appassionato di cammini, e in questi 25 anni ho diciamo, evoluto una forma di camminare che è diventata sempre più un modo per guardare dentro ai luoghi e anche guardare un po' dentro se stessi, insomma, ecco, quindi un cammino anche introspettivo, ma anche sociale, per conoscere ma per lanciare messaggi. Questo in particolare era un cammino a sé, che aveva questi 15 giorni di cammino e quindi circa 200 chilometri, è stato fatto perché cogliendo, diciamo, l'occasione del centenario del terremoto della Marsica, che fu nel 1915 in pieno inverno, e ho voluto camminare negli stessi giorni, quindi in pieno inverno, per mettermi anche alla prova, per capire cosa voleva dire cent'anni fa vivere sulla propria pelle all'aperto il freddo, la neve, queste cose, e per voler raccontare un territorio che apparentemente sembra marginale, apparentemente sembra in grossa crisi, ma che ha opportunità, quindi provare a dare uno stimolo anche a chi ci abita per dire che questo territorio ha un grande valore, non dimentichiamocelo, approfittiamone, sfruttiamo questi luoghi, i giovani non se ne devono andare, perché è un po' questo quello che soffre questi territori, no? C'è l'abbandono, lo spopolamento, cent'anni di migrazione. Senti, dal punto di vista tecnico, la curiosità rispetto a queste tappe, come si svolgono, qual è la tua attrezzatura, come spiegaci un po' di cose. Ma piuttosto semplice, nel senso che vabbè, insomma, si parte con uno zaino, completa autosufficienza, quindi sì, si cerca di non aver bisogno di aver bisogno del minimo indispensabile, quindi nello zaino c'è quello che serve, ma quello che serve per vivere sereni in cammino è pochissimo, quindi e poi dopo avevo lanciato questo progetto in precedenza, quindi avevo attivato persone, quindi alcuni sapevano che arrivavo, quindi ho avuto una bella ospitalità, le persone mi aspettavano, mi accoglievano nei vari paesi, insomma c'erano anche incontri pubblici tutte le sere, perché io volevo incontrare le persone del luogo, quindi io tutte le sere arrivavo e prima di cena avevo un piccolo incontro pubblico in cui raccontavo e proiettavo immagini legate a quello che era la mia visione di quello che era successo e di quello che mi aspettarei per questi territori, per poterli vedere rinascere, insomma. Quindi ho incontrato 500 persone in 15 giorni, è stato proprio bello, chi si aggiungeva a camminare con me, chi invece mi incontrava la sera. E come attrezzatura, appunto, quando hai dei buoni scarponi, che sono la cosa più importante per un camminatore, e quando hai il minimo indispensabile nel tuo zaino sei libero, perché ti senti completamente in libertà di poter camminare dove vuoi, cambiando direzione, non essendo legato e obbligato da cose, se non appunto questa linea che era la mia spirale che io ho compiuto in 15 giorni. Ecco, in parte mi hai risposto alla curiosità successiva rispetto all'interazione con il territorio che hai ogni volta, e ci hai parlato di questi incontri pubblici serali con proiezioni e l'incontro soprattutto con le persone. Ecco, volevo chiederti qual è l'interazione con il territorio e quale scegli di volta in volta. Adesso ci hai parlato dell'Abruzzo marsicano in concomitanza con la ricorrenza dei 100 anni del terremoto. In altre occasioni, quali sono i motivi, la spinta iniziale che ti fanno scegliere un luogo piuttosto che un altro? Sì, per parlare delle persone, appunto era bello perché c'erano incontri molto diversi, c'era per esempio in qualche paese persone che avevano organizzato incontri con anziani che volevano raccontare la loro storia del terremoto, sentita magari appunto direttamente dalla voce dei loro genitori, quindi comunque testimonianze quasi dirette di quelle storie. Altre volte invece erano momenti di incontro con giovani che appassionati di camminare o vogliosi di recuperare il rapporto con le tradizioni locali erano appunto interessati a sentire che cosa potevano essere le mie, diciamo, i miei stimoli, perché comunque questo era un po' l'obiettivo, no? Da cui appunto è nato poi anche questo libro che va ricordato, che è La spirale della memoria, che presenterò anche domani per l'edizione dei Cammini, insomma, ecco, che racconta tutte queste storie, racconta storie che partono dalla prima guerra mondiale, che partono da, dagli scrittori più importanti di questo territorio. Quindi per me è stato molto importante come incontro quello con Ignazio Silone. Insomma, Silone è un po' il la cultura della Marsica con i suoi, diciamo, punti critici e le sue bellezze, quindi è uno scrittore con cui non si poteva non fare i conti, e quindi un po' molta parte del viaggio è in attesa di arrivare a Pescina, che è il luogo natale di Silone, e confrontarmi con la sua percezione di quello che furono quegli anni e tutte le contraddizioni che da lì nacquero, insomma. Mm-hmm. Per corrispondere alla seconda domanda, io colgo delle suggestioni. Per esempio, in questo momento sto lavorando su un cammino che mi sta moltissimo a cuore, non in Italia ma a Creta, sull'isola di Creta in Grecia, dove ho percorso un cammino di 28 giorni seguendo quest'idea di voler attraversare tutta quest'isola stupenda da est a ovest per 500 chilometri. Camminato quasi un mese e adesso sta per uscire un libro che racconterà questa esperienza e darà la possibilità agli altri di poterlo percorrere. Ecco, a me interessa con i miei cammini dare la possibilità agli altri di percorrerli, e però andare anche alla ricerca delle verità altre, le verità alternative, no? Per esempio, ho creato un cammino in Abruzzo che si chiama il Cammino dei Briganti, perché lì c'è tanta storia da recuperare che è stata dimenticata, rimossa, o peggio ancora è la storia dei vincitori che ha schiacciato la storia dei vinti. E questo capita spesso in cammino, riuscire a vedere un po' l'altra versione dei fatti, quella non istituzionale, no? La stessa cosa sto facendo, quest'anno creerò un cammino che si chiama il Cammino dei Padri Sacrati, che in Molise va sulle orme di quello che successe nel conflitto tra i Romani e i Sanniti, una verità storica antichissima rimossa di un popolo colto e pacifico e pieno di una cultura affascinante che fu spazzato via dai Romani, e di cui appunto si vanno alla ricerca delle tracce per ristabilire un po' di giustizia storica, insomma. Senti, la tua presenza ha ispirato l'incontro di domani, Camminare è un atto sovversivo, questo è il titolo dato all'incontro, e ci sarà la presentazione del tuo libro, e che altro, Luca? Ci saranno anche una parte del documentario di cui abbiamo parlato prima, La terra trema, e ci sarà anche un altro ospite che è un regista che proietterà un altro documentario girato in cammino nella Tuscia, che racconta appunto un'altra esperienza di come il camminare può diventare in immagini un'esperienza affascinante e profonda. Bene. Luca, io ti ringrazio, è stato un piacere, speriamo di sentirci prossimamente. Grazie a tutti. A presto, ciao. A presto, ciao. Luca Gianotti, protagonista del documentario La terra trema, che sarà presentato a Logos, all'ex SNIA Viscosa, qui a Roma, in via Prenestina 173, domani, venerdì 2 ottobre. In collegamento c'è Ruben Lagattolla, co-regista del documentario Young Syrian Lenses, che è in concorso alla sesta edizione del Via Emilia Doc Fest che abbiamo presentato lo scorso giovedì. Ruben, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Allora, tra l'altro ci siamo scritti anche con l'altro regista Fabio Biaggianti, e mi ha raccontato per scritto un po' del vostro incontro, avvenuto poi grazie anche a Facebook, ha messo insieme due competenze, e poi tu sei andato materialmente in Siria a fare le riprese e mi diceva della vita quotidiana in luoghi come Aleppo. Allora, raccontaci un po' di questo incontro e di questo progetto, Ruben. Allora, sì, l'incontro è stato fortunato, perché io, insomma, quasi disperato ho messo un annuncio su un gruppo Facebook semplicemente, e mi hanno risposto, insomma, alcuni. Alla fine è venuto fuori Filippo, che ovviamente era l'unico finito nella cartella spam, tra l'altro. E dopo che mi ha mandato dei suoi lavori, l'ho chiamato subito e siamo messi insomma all'opera, perché insomma, il suo ruolo è stato fondamentale, perché altrimenti io già ero scioccato, insomma, traumatizzato dall'esperienza, e avrei creato un documentario orrendo da 4 ore e mezza più o meno, mm-hmm. perché non volevo lasciare da parte niente. Invece poi abbiamo lavorato bene, affiancati, e è venuto quello che è venuto fuori. Senti, allora, con lui hai lavorato soprattutto al montaggio, le riprese le hai fatte tu, raccontaci un po' di questo viaggio, Ruben. Il viaggio è stata un'avventura, insomma, in piena regola, perché ci siamo, con Enea Discepoli che mi ha accompagnato, ci siamo ritrovati in una situazione che era probabilmente oltre quello che ci aspettavamo, che già era tragico. Siamo ritrovati in una città dove sentivamo elicotteri che volavano continuamente e bombardavano, ogni 5-10 minuti sentivamo un'esplosione, e io sono in contatto con i protagonisti del documentario, che sono fortunatamente tutti vivi, e mi hanno detto che la situazione non è molto cambiata. E per me è stata un'esperienza, perché ho fatto un botto di morte, nel senso che dopo il primo giorno in cui ci sono state scene da incubo proprio, che sono anche visibili nel film, io sono andato in moschea, che era venerdì, sia perché eravamo sotto copertura, diciamo, come islamici, ma sia perché poi ci ha fatto comunque molto bene avere un affiancamento spirituale, diciamo, in quel caso là. E c'è stata proprio tutta la riflessione in cui poi ho dovuto accettare il fatto che era molto probabile che saremmo morti di lì a pochi giorni. Poi per fortuna invece è andato tutto bene. Senti, il tutto com'era partito, questa trasferta, questa... Allora, io avevo desiderio di andare in Siria da 2 anni, perché nei 2 anni precedenti ho lavorato a un progetto in particolare che si chiama My Future, di formazione nei campi rifugiati per siriani in Iraq, nel Kurdistan iracheno in particolare. Sì. E quindi, intervistando le persone, avevo desiderio, quando tornavo non c'era mai abbastanza news, non era come in questo periodo, insomma, non c'era proprio niente in televisione. Quindi ho conosciuto Enea Discepoli, che è un fotografo che andava per fare una mostra fotografica ad Aleppo. A me la storia sembrava veramente assurda e comunque, insomma, affascinante, per cui ho deciso di andare con lui. Quindi l'idea di partenza era semplicemente contribuire anche alla rivoluzione, facendo una cosa semplice, intervistando i media attivisti che sono i protagonisti del mio documentario, e utilizzando le loro foto e, diciamo, facendo anche una regia condivisa del film. Poi il luogo che era stato scelto da Enea, che era un caravanserraglio del 1600, era stato bombardato pochi giorni prima del nostro arrivo, e quindi la mostra poi si è deciso di non farla, nonostante avevamo veramente le stampe fotografiche sotto braccio. E quindi mi sono un po' reinventato una storia, entrando tra virgolette a lavorare per Halab News, Aleppo News, che è il network che poi, diciamo, mi ha ospitato e per cui lavorano i protagonisti del documentario, che è uno dei tanti network che fanno informazione attraverso video, foto. Hanno creato anche un'app che, diciamo, collegata con le vedette su Aleppo, alcune almeno segnalano i bombardamenti in corso o forse anche anticipando. Io purtroppo, non parlando arabo, non capisco bene questa app, però c'è, insomma, e fanno un lavoro molto molto faticoso e molto pericoloso. Questo... Sì. Senti, Ruben, qual è il quotidiano dei media attivisti in zona di guerra? Quali sono poi le loro attività rispetto alla controinformazione? Allora, le attività che fanno, una attività in particolare è, appena hanno notizia, loro fanno, diciamo, il necrologio quotidiano, perché una delle cose purtroppo più tragiche della città sono i dispersi, nel senso che tante volte una persona esce di casa perché magari in casa dove si sta nascosti c'è bisogno di qualcosa, la persona non torna e la famiglia quindi viene a sapere se almeno queste persone vengono trovate morte oppure ancora c'è speranza di ritrovarle vive. Ovviamente insieme a questo fanno informazione andando sui luoghi degli scontri, i luoghi dei bombardamenti. E poi, last but not least, hanno fatto anche un programma televisivo, una fiction, però il protagonista è stato sequestrato e ammazzato dalle spie governative, almeno a questo è quello che riferiscono loro, per cui, insomma, è una vita abbastanza dura e intensa, però io ho chiesto loro tante volte che cosa volessero fare, io disperato anch'io gli ho offerto anche una mano a venire qua, anche se è una cosa insomma assolutamente illegale. Loro hanno detto comunque assolutamente no, noi resteremo qua perché crediamo nella rivoluzione. Questo è l'aspetto più importante, credo, per quanto riguarda la rivoluzione siriana, perché poi effettivamente esiste e nel mio documentario io sono orgoglioso di mostrare almeno quell'aspetto della rivoluzione che è autentico, sincero e onesto, che purtroppo però era fatto da la maggior parte della gente, è quella che poi è scappata perché ambisce soltanto a una vita migliore. Senti, riescono a fare rete tra loro tutti questi oppositori e media attivisti? Diciamo sì e no, nel senso che anche se tra loro si conoscono e c'è un tra virgolette coordinamento, ognuno ha la propria casata, diciamo, per cui è difficile. Questo poi rispecchia anche la frammentazione politica che c'è dal lato, diciamo, dalla parte dei ribelli siriani, che la debolezza che hanno anche rispetto al dialogo internazionale è dovuta anche a quello, purtroppo. Senti, il documentario poi, oltre al Via Emilia Doc Fest, sta facendo il giro anche di altri festival, altre rassegne. Volevo chiederti se avrà una sorta di distribuzione o passaggi televisivi. Allora, passaggi televisivi purtroppo no, a parte un sostegno, tra virgolette, appena tornati da parte di TG2 Storie. Per quanto riguarda festival, l'abbiamo presentato fuori concorso allo Sguardi Altrove a Milano. Sì. Stasera sarà proiettato a Taranto al festival del documentario dedicato a Marcellino De Baggis. Poi siamo al Via Emilia Doc Fest, questo festival online. Il RIF, il Festival del Cinema Indipendente di Roma, eravamo in concorso, e poi adesso noi sabato partiremo per Tokyo, io e Filippo Viaggianti. Siamo stati selezionati allo UNHCR Refugee Film Festival. L'UNHCR è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e questa sicuramente insomma è l'opportunità più grande che ci è capitata fino adesso, anche perché siamo una produzione, diciamo, no budget, siamo io e Filippo fondamentalmente, e per cui è insomma un'occasione molto grande. Per quanto riguarda la distribuzione, noi siamo disperatamente alla ricerca di questo, perché abbiamo necessità assoluta di diffondere quello che è il messaggio. Ovviamente lo stiamo presentando in giro per l'Italia, nei cinema, grazie alle associazioni e altre, diciamo, organizzazioni che ci ospitano, però una distribuzione formale ancora non ce l'abbiamo. Abbiamo appena lanciato un crowdfunding, da un mese e mezzo è in corso un crowdfunding per preacquistare i DVD con dei contenuti speciali, però diciamo una distribuzione vera e propria ancora no, che è una cosa molto difficile per chi fa documentari in Italia. Ruben, una curiosità mi è venuta in mente sentendo quanto ci raccontavi della frammentazione dell'opposizione in Siria, però oltre alla caduta del regime, quali sono gli obiettivi? A cosa si mira? Quali società prefigurano in parte questi media attivisti? È molto difficile. Se c'è qualcosa che li accomuna, insomma, in modo più forte. Loro sicuramente adesso puntano soltanto alla caduta del regime di Bashar Assad. Okay. Questo è l'obiettivo che almeno io sono riuscito a farmi raccontare. Non c'è ancora un coordinamento per dire vogliamo una democrazia o vogliamo una legge islamica, perché poi anche parlare di legge islamica può essere molto fraintendibile qui da noi, specialmente in questi tempi, per cui questa è una cosa che si vedrà dopo. Nel documentario si vede anche quello che è il Consiglio Locale di Aleppo, che è stato istituito con delle votazioni, elezioni regolari, dove si tende ovviamente ad avere un approccio democratico, seppur in un paese in questo momento 100% sunnita, che è, diciamo, la parte di Aleppo ribelle. E nonostante questo, insomma, loro, io ho fatto una domanda dicendo: voi però siete comunque alleati con quelli che da noi vengono definiti terroristi di Jabhat al-Nusra, accusati di essere, diciamo, nati dalle ceneri di Al-Qaeda o comunque di venire da là. E la risposta è stata che comunque loro adesso si allierebbero anche col diavolo pur di perseguire il loro obiettivo, che è quello, diciamo, della caduta del regime siriano. Okay. La situazione ancora è molto complessa e nebulosa. Io poi ci ammetto di non essere un grande esperto di geopolitica, ci sono giornalisti molto più bravi di me che diciamo ne scrivono tutti i giorni, per cui questa è la mia impressione che ho poi avuto avendo conversazioni per 10 giorni di permanenza ad Aleppo l'anno scorso. Okay. E ovviamente conversazioni online. Mm-hmm. Che vanno tuttora avanti con i ragazzi che sono lì. Ruben, io ti ringrazio, un abbraccio. Grazie, un in bocca al lupo, e magari ci si sente per le novità future. Grazie mille, lo spero. Buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ruben Lagattolla, co-regista del documentario Young Syrian Lenses, che è in concorso alla sesta edizione del Via Emilia Doc Fest. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Abbiamo in linea Paolo Kerchiusai della 34esima edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 3 all'11 ottobre. Come ogni anno ci ritroviamo a parlarne volentieri. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, ci affascina sempre molto questo festival e raccontiamo tanto a chi ci ascolta e non lo conosce di cosa si tratta. Beh, questo è un festival dedicato all'arte del cinema nei suoi primi 30 anni di vita, il cinema cosiddetto muto, anche se come ormai si sa i film muti erano quasi sempre accompagnati da musica dal vivo, e il festival di Pordenone è speciale anche perché tutte le proiezioni sono accompagnate da musica al pianoforte, da piccola orchestra o da particolari gruppi musicali, e ci sarà una grande varietà di offerte quest'anno. Bene. Per quanto riguarda questa edizione, 34esima, insomma, comincia ad avere una consistente storia. Quante sono le opere che presenterete? Ma presenteremo grosso modo 200 film più o meno, che vanno dalle origini, dai primissimi anni del cinema fino agli albori del periodo sonoro. Va segnalato che nel corso degli anni il Festival di Pordenone ha mostrato oltre 6.500 film, e a volte ci chiedono: ma non avete, come dire, esaurito la scorta dei film muti che si possono mostrare? La risposta è semplice: abbiamo determinato che nel mondo, nelle cineteche del mondo, ci sono più di 50.000 film muti conservati nelle cineteche. Questo significa che abbiamo mostrato ancora soltanto una minoranza dei film che esistono, quindi ne abbiamo ancora per diversi decenni, questo è sicuro. Senti Paolo, il rapporto del festival con il restauro e con il digitale? Il rapporto del festival con il restauro è sempre stato molto stretto, perché il festival è diventato famoso come vetrina dei restauri delle grandi cineteche di tutto il mondo, soprattutto delle cineteche appartenenti alla Federazione Internazionale degli Archivi del Film. L'avvento del digitale ha costituito al tempo stesso un'opportunità e una sfida. Un'opportunità perché il digitale consente indubbiamente di rendere disponibili al pubblico una quantità di film che prima sarebbe stato impossibile mostrare. Dall'altra parte rimaniamo però fedeli all'idea che una forma d'arte dovrebbe essere presentata al pubblico nel suo formato originale. Quindi, quando possibile, noi ci adoperiamo a mostrare i film in copia 35 mm e quando ciò non è possibile, naturalmente in formato digitale della miglior qualità possibile. Paolo, ecco, come si manifesta, come si attua questo rapporto, questo coordinamento comunque tra le varie cineteche internazionali? Nel corso degli anni il festival ha instaurato un dialogo molto stretto con le cineteche. Come dire, ci siamo creati una credibilità attraverso un dialogo assiduo. Abbiamo visitato praticamente tutte le grandi cineteche del mondo, abbiamo mostrato che è nostra intenzione valorizzare il patrimonio cinematografico e soprattutto vogliamo avvalerci della competenza di coloro che conservano e restaurano i film. Non per nulla le giornate del cinema muto sono non soltanto un'occasione per vedere bellissimi film normalmente inaccessibili al pubblico perché vengono direttamente dalle cineteche, ma sono anche una specie di forum. Le giornate sono il luogo in cui, se volete parlare, interagire con chi restaura i film, con chi li conserva, ecco, Pordenone è il luogo ideale nella prima settimana di ottobre, perché vengono tutti per scambiarsi opinioni, per discutere progetti e per studiare nuovi modi di rendere la storia del cinema accessibile al grande pubblico. Senti, e per quanto riguarda il rapporto con i musicisti, con gli artisti per la musicazione dal vivo dei lavori? L'accompagnamento musicale al cinema muto è una forma d'arte a sé stante, non è un'arte facile, e infatti ci vantiamo parecchio del fatto che a Pordenone accogliamo ormai da anni la creme della creme dei musicisti di cinema muto. Sono grandi musicisti prima di tutto, ma soprattutto sono persone che si sforzano di comprendere il cinema muto. Contrariamente a quanto si pensa generalmente, suonare musica per un film muto non significa soltanto creare una sorta di tappezzeria sonora, dei suoni per evitare l'imbarazzo del silenio. In realtà il musicista che suona per un film muto segue la storia e fa in modo che il pubblico riesca a capire meglio il senso della storia attraverso le note. È come un commento, ma anziché essere un commento parlato, è un commento fatto di musica. Per questo i migliori musicisti a volte compiono dei veri miracoli, soprattutto quello di rendere appassionanti film che altrimenti potrebbero risultare ostici a un pubblico non specializzato. Senti, per quanto riguarda le caratteristiche dell'edizione di quest'anno, quali sono le novità, quali sono i punti su cui vi siete focalizzati? Beh, il menù di quest'anno è più variegato che mai. C'è l'imbarazzo della scelta, tanto per fare qualche esempio, passiamo da una retrospettiva pressoché completa dei film muti realizzati da Victor Fleming, il regista di Via col vento e del Mago di Oz, tutti e due del 1939, che però si era imposto all'attenzione del pubblico nel periodo muto con alcuni film di straordinario impatto emotivo, e alcuni sono veramente divertentissimi. Mi riferisco soprattutto a una commedia interpretata da Douglas Fairbanks intitolata When the Clouds Roll By, che è una delle commedie più divertenti che io abbia visto nel cinema muto. Abbiamo una retrospettiva dedicata al tema degli uomini forti nel cinema muto, cioè a tutti quei film che si sono ispirati al grande successo internazionale di Maciste, il coprotagonista del film di Giovanni Pastrone, Cabiria. Cabiria ha inaugurato tutto un genere dedicato ai tanti maciste che sono proliferati un po' in tutta Europa, ma soprattutto in Italia. Abbiamo poi alcuni eventi speciali, e non posso fare a meno di segnalare prima di tutto quello che si terrà il mercoledì in una straordinaria proiezione maratona del film francese I Miserabili. Un film che era stato originariamente presentato a episodi e che noi mostreremo nella sua versione integrale in una proiezione unica che inizierà alle 15:30 di mercoledì 7 ottobre e si concluderà grosso modo a mezzanotte. Ma vedere questi episodi tutti insieme sono veramente è come un po' leggere questo romanzo Fiume tutto d'un fiato, e anche questo con una maratona musicale che sarà veramente indimenticabile. Bene, a questo punto ci dai riferimenti internet per la programmazione, Paolo? Sì, certo, è il www.legiornatedelcinemamuto.it. Il sito contiene sia il calendario delle proiezioni sia la versione in PDF del catalogo generale delle giornate, per cui oltre a vedere quando vengono proiettati i film sono già disponibili i commenti alla proiezione di ciascun titolo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, buona giornata. Ciao Paolo. Paolo Cherchi Usai della 34esima edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 3 all'11 ottobre. Come ogni anno, Gaetano Capizzi, direttore della 18esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 6 all'11 ottobre, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Gaetano. Ciao a tutti. 18esima edizione, maggiorenni, Cinema Ambiente, per chi ci ascolta e non lo conoscesse, di cosa si parla, Gaetano? È un festival cinematografico di film a tematica ambientale, è uno dei festival più antichi di questo settore, un festival su questo tema, e presenta, diciamo, la produzione annuale di film su questo tema dell'ambiente, che è un tema sempre più attuale, sempre più sentito da tutti, solo come sappiamo anche negli ultimi tempi anche, diciamo, delle massime autorità hanno preso posizione verso questi problemi, cioè del festival che affronta il tema ambientale in tutti i suoi aspetti, che sono poi molteplici, sono tanti. Senti, il parco lavori, parco film, immagino anche documentari e cortometraggi, ecco, e quante sono le opere presenti in questa edizione? Sì, noi abbiamo ricevuto per la selezione circa un migliaio di film, più o meno, ne presenteremo 100, perché abbiamo fatto una selezione accurata. L'alto numero di film che sono arrivati indica che il cinema a tematica ambientale è molto vivo, è uno dei fenomeni del cinema degli ultimi tempi, no? Soprattutto nel settore del genere documentario, il cinema a tematica ambientale è molto presente, per cui e questo è anche, diciamo, indice del fatto che è un tema molto sentito ormai dalla gran parte della popolazione, perché non è più un tema di nicchia come 20 anni fa, più o meno, quando abbiamo dato il Festival Cinema Ambiente, in cui, insomma, si lanciavano degli allarmi per il futuro. Adesso siamo in una situazione, diciamo, siamo dentro il problema, stiamo vivendo i grandi problemi dei cambiamenti climatici, tutti ci accorgiamo di cosa sta succedendo, e questi temi ambientali sono diventati di dominio comune, ecco, tutti quanti si rendono conto che può andare avanti in questo modo, e allora questo ha innescato tutta una serie di meccanismi di presa di coscienza, di produzione di opere, di film, di libri sul tema dell'ambiente, e il cinema ambiente è un po' il punto di approdo di molte di queste opere, più che l'approdo di partenza, perché sono dei film in anteprima che partono da cinema ambiente e poi hanno un loro percorso in giro per il mondo. Ecco, quali sono le questioni più battute rispetto alle problematiche ambientali, Gaetano, tra le cose che presenterete? Sì, noi quest'anno abbiamo una sorta di edizione speciale del festival, e ci siamo spostati anche di periodo. Normalmente il festival è la prima settimana di giugno, quest'anno è invece dal 6 all'11 ottobre a Torino, perché c'è una grande manifestazione legata all'Expo di Milano qua a Torino, e affrontiamo, diciamo, come tema principale quello del nutrimento, no? Nutrimento in senso ampio, dall'alimentazione del cibo al nutrimento dell'anima, per cui uno dei temi molto presenti quest'anno è questo tema dell'alimentazione. Infatti il film d'apertura è dedicato a questo tema, si chiama 10 miliardi, cosa mangeremo? Cioè, si pone il problema di cosa succederà nel 2050 quando la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi, ci sarà un piccolo problema, diciamo, di come fare di merenda, sussistenza, e pranzo tutti i giorni, traccia dei vari scenari. Mm-hmm. Ma ovviamente il tema del cambiamento climatico è il tema principale, insomma, quello più impellente, sarà presente nel film di chiusura, che un'anteprima italiana realizzata da Luc Jacquet, che è il regista del film La marcia dei pinguini, che è stato uno, insomma, dei documentari più visti dell'intera storia del cinema. Luc Jacquet ha realizzato un film sui cambiamenti climatici, si chiama Le glacis de ciel, che sarà dato un'anteprima a Torino, con Luc Jacquet presente, per cui questo è un altro dei temi che verrà affrontato, ma anche il tema, diciamo, anche un po' il tema storico. Una delle caratteristiche di quest'anno, si può dire che abbiamo due grandi film, uno dal titolo How to Change the World, che è un po' la storia di Greenpeace, come è nato Greenpeace, come è morto poi Greenpeace, realizzato interamente con materiali di repertorio, no? Così anche come Le glacis de ciel di Jacquet è realizzato con materiali di repertorio. Sono due grandissimi film e indicano, insomma, che anche il cinema ambientale ha inizia ad avere una sua storia, tant'è vero che si realizza dei film con materiali ambientali girati 20, 30 anni fa, 40 anni fa, no? Per cui una delle novità di quest'anno può essere questa. Come anche il tema della mobilità è molto presente, della mobilità urbana. Abbiamo un grande film dal titolo Bikes vs Car, la biciclette contro le macchine, che traccia una specie di giro del mondo sulle varie situazioni automobilistiche, da come si rischia la vita a San Paolo del Brasile andando in bici, alla frustrazione del tassista di Copenaghen che non può girare in macchina perché ci sono sotto le biciclette, no? Per cui tra l'altro c'è uno scenario mondiale di questo, ma anche un film torinese dal titolo Contromano sui nuovi mestieri che nascono dalla diffusione della bicicletta. Cioè, Torino è uno dei fenomeni che molta gente sta iniziando ad andare in bici, per cui si aprono ciclofficine, si aprono, appunto, c'è tutto l'indotto economico, anche per cui anche il tema della mobilità è presente, come poi tantissimi altri. Dall'impatto ambientale del chewing gum, the dark side of the chew, indaga uno questo fenomeno, diciamo, misconosciuto ma terribile, no? Che è l'inquinamento del chewing gum, che è uno dei prodotti più inquinanti e più diffusi nel mondo. Pulire una strada da un chewing gum costa 3 euro, e non so, da un chewing gum buttato a terra, e tutto il mondo ne è pieno. Tra l'altro è tutta plastica, per cui è un prodotto interamente plastico che non vale la pena di mangiare, insomma. I temi sono tantissimi, come al solito. Sì. Ecco, ci sono anche aree geografiche più sensibili? Ci sono delle cinematografie più evolute, diciamo, dal punto di vista del cinema ambientale, no? Sicuramente negli Stati Uniti, cioè, arriva una grande ondata di film dagli Stati Uniti di altissimo livello, perché ci sono dei produttori che investono dei soldi per questo tipo di film, perché evidentemente c'è anche un pubblico che paga il biglietto per andare a vedere questi film, e questo è un segnale positivo, perché significa che la gente vuol vedere, è preoccupata, va a vedere questi film. Perché gli Stati Uniti sicuramente sono una nazione che produce, che ha una grande produzione di film ambientale, ma così come il Canada o la Francia, la Gran Bretagna, anche l'Italia, insomma, si difende con questo campo come può, no? Perché stiamo parlando soprattutto di documentari, no? Il mercato del documentario in Italia è praticamente non esiste, insomma, allora c'è molta difficoltà a fare circuitare i documentari, anche se abbiamo dei grandi registi, dei grandi film. Noi abbiamo una sezione dedicata ai film italiani, perché siamo un po' un territorio protetto, una specie di serra per fare crescere il cinema italiano anche in questo senso. Ma per questo facciamo anche una iniziativa che si chiama Cinema Ambiente Lab, che è una sorta di scuola di cinema ambientale qua durante Cinema Ambiente, dove i grandi registi presenti al festival, registi che hanno magari già vinto il premio Oscar e che sono affermati nel mondo, fanno una scuola di cinema ambientale per giovani registi, soprattutto italiani, ma alcuni arrivano anche dall'Europa, sperando appunto di dare degli strumenti in più a chi volesse cimentarsi nel cinema ambientale. Bene, a questo punto ci dai i riferimenti internet per la programmazione, Gaetano? Assolutamente, cioè, il veicolo principale è un'app, abbiamo un'app che sia su iOS che su Android, si chiama Cinema Ambiente, si scarica, c'è il programma, le trame, i trailer, sì, è un'app completa, per cui scaricate l'app Cinema Ambiente, gratuita, e il sito www.cinemaambiente.it, dove potete trovare tutte le informazioni, tutto il possibile, insomma, che è da mettere. Anche la nostra pagina Facebook è molto seguita, c'è appunto la pagina fan di Cinema Ambiente, per cui diciamo, noi stiamo cercando di abbassare molto la produzione cartacea della nostra comunicazione, per cui non abbiamo il catalogo, l'abbiamo, diciamo, fatto con l'app da qualche anno per consumare meno carta, meno inchiostro, per cui questi sono un po' i canali che impattano di meno. Scaricate l'app. Gaetano, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Gaetano Capizzi, direttore della 18ª edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 6 all'11 ottobre. Eccoci con Cinzia Masotina dello Scrittoio per parlare della riapertura del Cinema Teatro Trieste. Cinzia, ben ritrovata, come va? Abbastanza bene, ciao Federico, magari qua a Milano è un po' più grigio, magari che a Roma, non lo so. Anche qui è grigio oggi. Comunque... è grigio, allora siamo uniti per una volta. Senti, allora questa storia del Cinema Teatro Trieste, raccontacela un po'. Allora, dunque, il Cinema Teatro Trieste era una sala storica di Milano, aperta negli anni 20, e che ovviamente, come tutte le sale di città, essendo peraltro in una zona molto popolosa, ma non centrale, ha passato tutta, insomma, la vita solita delle sale di città, quindi è stata anche un cinema porno, poi un défé, poi un cineforum, finché alla fine... qualche anno fa ha chiuso i battenti. Ma ecco che arriva questo gestore diciamo, più che un gestore di locali e di ristorazione, è veramente una persona che ha sempre l'idea di creare delle idee attorno ai locali che prende in gestione, e quindi l'idea di far rivivere il cinema, quindi far riattivare la vecchia macchina di proiezione in pellicola, non distrugge la possibilità di poter proiettare in un futuro prossimo film, eccetera. E poi cosa accade? Che questo gestore incontra Scrittoio e quindi abbiamo deciso di fare questa pazzia, cioè abbiamo iniziato a pensare al cinema, cosa si faceva quando è nato il cinema, nel locale cinema. Si mangiava, si beveva, si fumava, si facevano bambini e altre cose. Bene, allora, senza togliere lo spazio al bistrò, alla cena e quant'altro, quindi le persone che vengono non devono pagare un biglietto, possono tranquillamente sedersi, e dalle 22 in poi ecco che si spengono le luci e il grande telo bianco, completamente ristrutturato, restaurato appunto dai nuovi proprietari, diventa il luogo delle immagini su cui proiettare, da documentari a vecchi film, a nuovi film, in un'ottica quindi di socialità, di intrattenimento e di riscoperta di alcuni luoghi e di un modo di far cinema che forse si è perso. Questa è un po' l'idea. Poi ti posso parlare di programmazione, di cose. No, nel senso, avete poi fissato un giorno settimanale che è quello, credo sia il mercoledì, tutti i mercoledì, per un ciclo di proiezioni, se non sbaglio. Esattamente, perché ora ovviamente io ho cercato di farti capire, Federico, e far capire insomma chi ci ascolta qual era il senso, no? Perché adesso molto spesso si dice che le sale si devono aprire ad altro, devono anche essere altro. Io non sono convinta, sai bene quanto io ami il cinema e il concetto della sala. Qua allora, in maniera assolutamente non mascherata, diciamo che la vocazione principale di questo locale è il poter prenderci aperitivi, il poter cenare in maniera gustosa, il poter stare a fare due chiacchiere dopo cena, e ci sono serate di musica, c'è serate di teatro, ma c'è la serata cinema, in cui però a quel punto quel locale diventa davvero un cinema, e lo diventa in questo caso, in questo primo ciclo, chiamato ovviamente Il sapore delle immagini, con una serie di documentari e di opere. Il mercoledì dalle 22, sorseggiandosi se uno vuole, ovviamente un buon bicchiere di vino, quello che gradisce, può appunto assistere a queste proiezioni, che spesso saranno anche accompagnate o da autori o da critici. E iniziamo subito il 7 ottobre con un bellissimo documentario che è Love Marilyn, i diari segreti di Liz Garbus, ed è su appunto i diari segreti di Marilyn Monroe. E ovviamente non poteva mancare un cinema e cucina, però in maniera un po' inaspettata, quindi andiamo a riscoprire un film che magari chi è un pantofolaio televisivo qualche volta l'ha visto in televisione, ma che è da anni che non si ripropone sul grande schermo, che è una cena quasi perfetta, dove abbiamo una giovane Cameron Diaz che assieme agli amici, così molto liberal, decidono di usare queste cene per letteralmente far fuori chi non ha idee, secondo loro, democratiche o abbastanza aperte. E poi abbiamo anche un altro bellissimo documentario, che è Freda, la segretaria dei Beatles, della Wanted Cinema. E poi chiudiamo con un divertissement, questo primo ciclo, che è Finché notte non ci separino, per andare a ricordarci com'era partita la Julie Lipinski, che anche quest'anno a Venezia, con le sue commedie sempre molto sapide, insomma, ci intrattiene con intelligenza. Ci dai a questo punto tutti i riferimenti per sapere della programmazione, Cinzia, su internet? Allora, ovviamente la pagina Facebook di Scrittorio, quindi lo Scrittorio pagina Facebook, oppure Cinema Teatro Trieste, e per qualsiasi altra informazione www.cinecult, scrittorio.net. Il Cinema Trieste Cinema Teatro Trieste è ovviamente nel cuore di Milano, facilmente raggiungibile con la metropolitana e con i mezzi pubblici, e insomma io spero davvero che sia un inizio ci porti fortuna, ecco. Bene. Ripeto ancora per le informazioni, http cinecult.scrittorio.com, e ricordo per i milanesi Cinema Teatro Trieste, Vio Antonio Pacinotti 6, Milano. Cinzia, un abbraccio, alla prossima. Grazie anche a te e a tutti voi. Ciao. Cinzia Masotina dello Scrittorio sulla riapertura del Cinema Teatro Trieste a Milano. Eccoci con Mario Mazzetti della Federazione Italiana Cinema d'Essai per parlarci della 15ª edizione degli incontri a Mantova dal 5 all'8 ottobre. Mario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Raccontaci un po' di cosa, allora, per chi non li conoscesse, cosa sono questi incontri, Mario? Gli incontri del Cinema d'Essai sono nati nel 2001 da un lato per aggregare i ormai 500 e più schermi che aderiscono alla FICE, che propongono cinema di qualità per tutto l'anno in tutta Italia, e dall'altro si sono radicati piano piano, prima a Ravenna, poi ad Asti e poi da 7 anni a Mantova sul territorio, con una serie di eventi aperti alla città, al pubblico cittadino. Quest'anno abbiamo 10 anteprime che raccontano un po' quello che è il cinema d'essai, il cinema d'autore, tra l'altro mai come quest'anno di tutto il mondo, in 4 serate per il pubblico mantovano. Accanto a queste anteprime per i cittadini di Mantova ci saranno 15 anteprime per gli accreditati, cosiddetti addetti ai lavori, e anche 2 proiezioni per le scuole di film che secondo noi potrebbero, come dire, insomma, interessare gli studenti delle scuole superiori. Qual è lo stato dell'arte rispetto ai cinema d'essai, Mario? Ma diciamo che mentre il mercato italiano in questo momento saluta con favore 2 cartoni animati soprattutto, che stanno incassando tantissimo, hanno portato il mese di settembre in forte vantaggio rispetto a un anno fa, e anche l'anno, insomma, non se la passa male, viceversa il cinema, diciamo, tradizionale, il cinema un po' meno roboante, e soprattutto il cinema di sé, e anche quest'anno il cinema italiano, se la passano un po' meno bene. Ora, che dipenda da una qualità dell'offerta piuttosto che da una promozione non sempre attiva, magari un po' più passiva sulle promozioni festivaliere, o anche al fatto che forse il pubblico va in qualche modo, gli va data una scossa, va anche aggiornato, bisogna fare più formazione anche fin dalle scuole, insomma, con le lezioni di cinema, come diciamo noi, che sono per ora una chimera, insomma c'è da lavorare molto. Infatti a Mantova il presidente della FICE, Domenico Di Noia, e tanti altri rappresentanti delle associazioni del settore discuteranno a partire dai dati, che come dicevo non è che siano proprio entusiasmanti, proprio per come rivitalizzare un settore, con la convinzione che c'è molto da fare ma che si può anche molto ottenere. Senti, le sale in provincia sono in espansione, si stanno aggregando a questa rete, o come sta andando, insomma? Ma in generale quello dell'Essai è stato un incentivo negli ultimi anni, devo dire, insomma, che ha aggregato parecchio. Adesso le sale, soprattutto di provincia, hanno tutto un po' il fiatone, perché fino allo scorso anno, ma insomma qualcuna c'è, cioè l'onda lunga anche adesso, hanno investito tanto risorse ma anche molta fatica per digitalizzare, cioè la trasformazione tecnologica imposta, come dire, di buttare il vecchio proiettore che tra l'altro durava anche 20-30 anni, mentre invece questi, come dire, hanno bisogno di un rinnovo molto più breve. Quindi insomma, devo dire, un po' di fiatone c'è per questo. Poi veniamo da una crisi economica che ha colpito tutti, quindi naturalmente anche gli spettatori, anche da, come dire, un po' di distrazioni in più, domestiche e non, su schermi sempre più piccoli. Quindi insomma in questo momento si cerca di, come dire, di rivitalizzare anche sotto questo profilo. Senti, ci dai riferimenti per saperne di più sulle giornate ma anche sull'attività dei cinema d'essai? Su Mantova, dici? Su Mantova, per quanto riguarda gli incontri, ma più in generale anche per la FICE, insomma. Ma io sono reduce dalla conferenza stampa di Cinema Days, che sono la festa del cinema, quest'anno chiamata così, dal 12 al 15 ottobre, 4 giornate a 3 euro, tutte le sale d'Italia. E le sale d'essai faranno la loro parte proponendo una programmazione diversificata, arricchita ulteriormente, insistendo un po' di più sul cinema italiano, su documentari, su opere, insomma, che aggreghino un pubblico che è anche un po' più differente, più curioso di vedere anche altre cose. Tornando a Mantova, noi abbiamo vari momenti tra le anteprime, tra le anticipazioni dei film italiani che stiamo per vedere, anche quello della celebrazione, ci saranno dei premi. Noi quest'anno abbiamo voglia di, come dire, di riconoscere il talento di, ormai insomma, consacrato, di Matteo Garrone, che insomma ha fatto un film non proprio facilissimo, che era Il racconto dei racconti, che comunque insomma gli ha aperto porte di tutti i vari mercati, ma anche di una regista donna che insomma, devo dire, se la cava dignitosamente. Dopo Viaggio sola esce oggi in sala Io e lei, e Maria Sole Tognazzi verrà a Mantova a prendere uno dei premi. E poi un regista un po' più appartato come Ivano De Matteo, che però aggiunto al quarto film e alla vigilia delle riprese del quinto, insomma negli ultimi 12 mesi ne sono usciti due, cioè ha recuperato quello che era il secondo film che in questi giorni nelle sale La Bella Gente, e poi è uscito un anno fa I Nostri Ragazzi, e insomma ci sembra che racconti la nostra Italia in una, da uno sguardo un po' diverso da quello tipico, per cui abbiamo una gran voglia di valorizzarlo. In più quest'anno diamo premi agli attori davvero con l'obiettivo della scoperta e della valorizzazione, anziché premiare i talenti consacrati, cosa che peraltro abbiamo fatto e continueremo a fare. Vogliamo sottolineare due talenti: uno è Alessandro Borghi, che è emerso con Non essere cattivo e che scoppierà, a nostro avviso, positivamente parlando, con Suburra di Stefano Sollima, e poi l'altra invece è una, veramente credo, una poco più che esordiente, si chiama Ondina Quadri ed è la protagonista di Arianna di Carlo Lavagna, che abbiamo visto e apprezzato a Venezia. Insomma, in qualche modo i talenti emergenti vanno coltivati, e la FICE è una delle cose che si propone di fare. Mario, c'è un vostro sito internet? www.fice.it, c'è sia il programma di Mantova nonché tutte le informazioni sulle nostre iniziative che 12 mesi su 12 si rivolgono alle sale d'estate, al pubblico delle sale d'estate, documentari, cortometraggi e quant'altro. Fin dell'estate, l'estate è un periodo ancora piuttosto addormentato per il cinema di qualità, noi invece vorremmo dare una scossa e promuovere anche coinvolgendo i nostri associati a una programmazione estiva di cinema d'estate. C'è spazio e secondo me c'è anche pubblico. Un abbraccio e risentirci presto. Grazie, un abbraccio a tutti voi. Ciao Mario. Mario Mazzetti della Federazione Italiana Cinema d'Essai per parlare della 15ª edizione degli incontri a Mantova dal 5 all'8 ottobre. Ci eravamo sentiti ad inizio agosto in vista della partecipazione a Locarno, ora siamo all'uscita in sala. Andrea Segre, regista del documentario I Sogni del Lago Salato, in uscita in sala proprio oggi giovedì 1 ottobre. Andrea, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, questo documentario rientra nel progetto Fuori Rotta, ci dicevi la scorsa volta, giusto? Sì, è il documentario che nasce dal viaggio che abbiamo fatto in Kazakistan, con il quale abbiamo lanciato il progetto Fuori Rotta, che adesso è già arrivato, diciamo, ai suoi sviluppi più importanti, perché ci sono appunto altri ragazzi che stanno facendo dei viaggi fuori rotta un po' in giro per tutto il mondo, e alcuni di loro saranno presenti anche questa sera con me al Cinema Farnese. Senti, il Kazakistan viene da un passato difficile, un futuro che sembra tutto molto roseo, tra petrolio e materie prime. Raccontaci un po' di queste impressioni. Ma sì, il film in realtà non è sul Kazakistan. Il viaggio in Kazakistan è l'occasione per riflettere sul rapporto tra la vita e lo sviluppo economico, la crescita economica, cioè cosa succede della vita di ognuno di noi quando ti ritrovi dentro ad un sistema paese che sembra esplodere in direzioni di grande progresso, di grande crescita, e ti dicono che tutto andrà bene. Questo l'abbiamo vissuto 50 anni fa, l'hanno vissuto i nostri genitori, tra cui anche mia mamma, mio padre, che in qualche modo fanno parte anche del film, grazie alle vecchie Super 8 che ho trovato nella cantina di mio zio, e oggi invece lo vivono in altri paesi, tra cui anche il Kazakistan. La vera domanda del film è come si fa, quando ti dicono che sto andando bene, a interrogarsi su quello che potrebbe succedere. Oggi per noi è facile interrogarsi su quello che è successo dopo, per i Kazaki è un po' più difficile. Tra l'altro, ecco, rispetto a questo parallelo, tu hai fatto uso dell'archivio dell'ENI degli anni 60, ma anche dell'archivio di famiglia. Sì, in questo strano dialogo tra il Kazakistan di oggi, l'Italia del passato, ma anche tra il Kazakistan del futuro e l'Italia del presente, ho lavorato, oltre con le immagini fatte appunto in Kazakistan, con l'importante materiale dell'archivio storico ENI, che diede a registi di grandissima importanza per la storia del cinema documentario come De Seta, Bertolucci, Fasara, Bové ed altri, la possibilità di raccontare la trasformazione italiana da società rurale, contadina e tendenzialmente povera, a una società che stava aprendosi all'industrializzazione, quindi il viaggio verso le nuove ricchezze, quell'archivio ci racconta quella memoria e ci fa capire come è difficile, mentre vivi quelle cose, porsi delle domande critiche su come potrebbe andare. Le domande critiche sono iniziate dopo, sono iniziate negli anni 70, ma prima, negli anni 50-60, quando furono fatti dei documentari, era difficile porsele, così come è difficile porle nel caso di Candy oggi. Ecco, forse un documentario sulle interviste impossibili, una cosa del genere. E dentro a queste interviste impossibili ci sono anche dei ricordi di pezzi della mia famiglia e di pezzi della storia della mia famiglia, che di chi della mia famiglia ha vissuto quegli anni in modo semplicemente felice e pieno di speranza. Ecco, a proposito di paralleli, la cosa che mi aveva fatto impressione, te l'avevo già citata anche la scorsa volta, rispetto, ecco, alla gestione del sviluppo e del progresso, le compagnie petrolifere che vanno nei villaggi in Kazakistan promettendo lavoro per i giovani e abitazioni, ma poi spesso restano solo promesse. Sì, sai, il vero problema è quando non ci sono appunto dei filtri che permettono di porre dei limiti all'interesse economico, cioè quando non si creano delle forme di redistribuzione, non solo del reddito ma anche delle occasioni e della qualità della vita, cioè nel momento in cui il potere di chi guida la crescita economica schiaccia altre priorità esistenziali, poi il rischio di creare grossi guai è forte. Lo è stato in tantissimi luoghi dell'industrializzazione italiana, che oggi sono nel migliore dei casi dei fantasmi, nel peggiore dei casi sono dei produttori di morte, e rischia di essere così in tutti i luoghi dove a questo potere non si pongono appunto dei limiti legati al rispetto essenziale della qualità della vita. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, arriva oggi in sala in quante copie, Andrea, e con che modalità vi siete mossi? Noi lo stiamo distribuendo direttamente come Zalab, ci stiamo muovendo attraverso i docenti indipendenti che riescono a proporre, diciamo, sì, uscita come Zalab in una quindicina di città, in diversi momenti e in diverse date, da qui a durante tutto il mese di ottobre, e tutte le date le trovate su zalab.org. Vabbè, i riferimenti ce li ha dati, è ricaduta di nuovo la linea. A questo punto continuiamo, perché adesso mandiamo in onda l'intervento per quanto riguarda la sesta edizione di Mondovisioni a Ferrara dal 2 al 4 ottobre, Sergio Fant. E intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per lo spazio. Mondovisioni, siamo alla sesta edizione, intanto per chi ci ascolta, cos'è Mondovisioni? Mondovisioni è una costola, diciamo, del festival del settimanale internazionale a Ferrara. Il festival si chiama Internazionale a Ferrara e chi c'è stato sa che è una sorta di weekend molto intenso in cui Internazionale diventa una sorta di rivista a cielo aperto, una sorta di happening in cui i redattori di Internazionale, ma anche moltissimi ospiti, discutono in pubblico di questioni d'attualità, diritti umani, politica e questioni sociali. Sei anni fa appunto abbiamo aggiunto a questo evento anche una parte che riguarda il cinema, che portava dentro al festival quello che secondo noi era il miglior documentario internazionale che contribuiva a questa riflessione sul presente. Da allora appunto è nata Mondovisioni, così Mondovisioni si chiama oggi ufficialmente i documentari di Internazionale, ed è un progetto appunto che non solo esiste a Internazionale a Ferrara, ma seguendo un po' quello spirito di diffusione, di allargamento, insomma, a un pubblico sempre più ampio che è quello della rivista stessa, ha cominciato a viaggiare attraverso l'Italia, ma questo poi insomma forse lo possiamo raccontare un po' a parte. Sì, senti, per quanto riguarda, voglio sapere, i lavori che saranno presentati, quanti sono e quali sono? Allora, Mondovisioni è sempre questa formula di 8 titoli, che sono tutti quelli, diciamo, che riusciamo a infilare in questo weekend ferrarese. A Ferrara il festival gode di un pubblico molto numeroso, per cui noi cerchiamo di presentare tutti i film due volte per dare occasione a tutti in questa grande sala che è il Cinema Boldini di venire a vederli. Per cui i film sono 8, non è facile sceglierli perché appunto ne vediamo ogni anno circa insomma qualche dozzina di titoli che ci sembrano unire quella, come dire, quel mix tra qualità del film, per cui cerchiamo di scegliere dei film che non siano dei piatti reportage su questioni per quanto importanti, per quanto urgenti, ma che, come dire, non abbiano quel passo e quel ritmo e quello stile cinematografico, per cui cerchiamo di unire la forza di un tema, l'attualità di una questione, allo sguardo di un regista che sia capace di creare un vero film, una vera occasione di narrazione e di scoperta per il pubblico. Senti, poi ci sarà anche un secondo momento, non saranno solo a Ferrara, ma partiranno, per così dire, in tour. Sì, mi rendo conto che ho schivato la domanda sui temi, ma sono 8, se vuoi velocemente te li dico, oppure sì. Siamo già fuori tempo massimo. No, un rapido elenco possiamo farlo, certo. Ok, la panoramica è un po', come dire, cerchiamo di mappare un po' l'attualità, con 8 titoli è quasi impossibile, però cerchiamo di farlo. Andremo quest'anno dalle paranoie per il terrorismo islamico, per la minaccia incombente, attraverso un film che dagli Stati Uniti ci racconta una strampalata, improbabile operazione antiterroristica tessuta e organizzata dall'FBI. Il film si chiama Terror e arriva in anteprima italiana da grandi festival americani. A seguire quello che credo sia il film più atteso, Cartelland, che invece racconta dal Messico la situazione dei gruppi di autodifesa che si sono schierati contro i narcotrafficanti, creando in alcuni stati messicani una situazione praticamente di aperta guerra civile, ed è un film anche questo premiato a livello internazionale, che arriva per la prima volta in Italia a Ferrara, con Democrats, che arriva dalla Danimarca ma ci porterà in Africa, in Zimbabwe in particolar modo, a seguire il tentativo di trasformare un paese troppo abituato alle dittature in un paese democratico. In Europa ci occuperemo della Spagna con un film che si chiama En Terra Extrana, un film che racconta la migrazione delle giovani generazioni spagnole a causa della crisi, ed è un film che al 99% possiamo leggere e vedere applicato anche alla situazione italiana, ovvero una situazione di crisi economica, di forte disoccupazione giovanile e in cui molte migliaia di persone sono costrette a un nuovo esilio. In Sud America faremo una puntata con Life is Sacred, che ci porta in Colombia, ed è un film che diventa di grande attualità in questi giorni, quando il governo colombiano finalmente sta firmando un armistizio con le FARC, ponendo fine a quello che era il più lungo conflitto armato del dopoguerra, praticamente sono 50 anni di conflitto armato in Colombia. In Asia, per l'Asia, presenteremo un film che si chiama The Chinese Mayor, che racconta un curioso dietro le quinte della politica cinese, qualcosa che non siamo abituati a vedere normalmente. E gli ultimi appuntamenti saranno in Africa di nuovo, ma l'Africa appunto che cerca di viaggiare e di arrivare in Europa, per cui racconteremo una storia di migrazione, tema appunto più che mai d'attualità. Il film si chiama Voyage en Barbarie e racconta una rotta meno nota, che è quella che porta dall'Eritrea verso il Sinai e la Turchia e la Grecia verso l'Europa, dove accadono storie terribili che racconteremo, anche questo film in qualche modo denuncia per la prima volta. E l'ultimo, un tema caro a internazionale, quello della libertà di informazione, con We Are Journalists racconteremo 10 anni di repressione durissima nei confronti della stampa e dei giornalisti iraniani da parte del governo di Ahmadinejad, e a farlo è un giornalista in prima persona, lui stesso imprigionato, torturato, oggi esiliato in Danimarca, che ha raccontato la sua storia con questo film. Sergio, dicevamo del tour in altri luoghi al di là e dopo Ferrara. Ci puoi dire qualcosa? Sì. Mondovisione ha preso questa forma per cui il festival per noi non è la fine, ma è l'inizio in realtà di questa avventura. Per cui a Internazionale a Ferrara questo weekend, ricordo dal 2 al 4 ottobre, la rassegna debutta, ma non finisce lì. Non resta l'unica occasione per vedere questi film, che invece fin dal giorno successivo cominciano a viaggiare per l'Italia. Voi siete a Roma e a Roma c'è un appuntamento ormai abituale, che è quello al Palazzo delle Esposizioni, sì, che ospiterà la rassegna a partire dal 6 ottobre fino all'11, per cui da martedì a domenica ci sarà occasione di vedere questi film, che saranno tra l'altro presentati dai redattori di Internazionale, ma andremo anche, tanto per cominciare, da Belluno a Lecce, a Milano, in Trentino, a Pergine Valsugana, a Chieti, a Trieste, a Savona, insomma sono, sì, l'anno scorso, sì, sì, sono state oltre 30 le città che hanno scritto la rassegna, e quest'anno ci auguriamo di, come dire, di superare quel numero, quella quota. E a questo punto ci dai riferimenti internet per la programmazione e i vari luoghi? Sì, allora tutte le informazioni sono sul sito di Cineagenzia, che è il progetto, come dire, la piattaforma che organizza questo progetto insieme a Internazionale, per cui il sito è cineagenzia.it, dove trovate tutte le informazioni relative anche al tour e le tappe, il calendario delle proiezioni dei documentari. Per invece saperne di più sul festival vero e proprio, sul sito di Internazionale, internazionale.it, c'è una sezione dedicata al festival che in questi giorni è sempre più ricca di informazioni, e durante il festival diventerà proprio la finestra online della manifestazione a Ferrara. Sergio, io ti ringrazio, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi, vi aspettiamo a Ferrara e al Palazzo delle Esposizioni. Questo era Sergio Fant per parlarci della sesta edizione di Mondovisioni a Ferrara dal 2 al 4 ottobre e poi in altri luoghi d'Italia. Lo abbiamo registrato l'altro ieri perché è all'estero. Questo è tutto per Visionari, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info,